tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, da stasera si pensa alle remontate, ci si prova almeno, a cominciare dalla Roma in Ucraina, anche se bookmaker e statistici lasciano davvero pochi margini di speranza, alla Roma in particolare, ma anche a Milan e Inter, e di questo si può discutere in compagnia di Fabio Tavelli. Fabio, buondì. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti. In effetti numeri impietosi, è anche vero che la matematica c'entra abbastanza poco, Però è vero, perché insomma l'esperienza, la statistica, soprattutto in questo caso, perché dove la memoria non arriva, arrivano i numeri, dice che solo una squadra in tempi recenti nella Champions League è riuscita a rimontare da una sconfitta interna, e ce lo ricordiamo bene, era l'Ajax, che poi perse la finale a Roma contro la Juventus, e ogni altra volta chi ha perso all'andata è finito fuori. Questo non vuol dire che le nostre tre debbano fare questa fine, però insomma i precedenti non sono confortanti. E, tra l'altro, anche i bookmakers si basano su queste statistiche, o comunque si basano anche su queste statistiche, poi prendono in esame le caratteristiche delle squadre, la loro forza in assoluta, tant'è vero che c'è molto più equilibrio nelle quote dei bookmakers rispetto a queste statistiche. Però leggere che la Roma ha il 3,8% di possibilità di passare contro il 96,2% dello Shakhtar, mi sembra, anche in questo caso mi sembra un po' severa, però è vero che partendo da un 2-3 casalingo e giocando sul campo, tra l'altro lo Shakhtar mi pare sia imbattuto da 54 mi pare, sì, una striscia molto molto lunga, sì, cioè. Quindi posso capire quelle, ma concedere soltanto il 10 qualcosa per cento di probabilità sia Milan che Inter di eliminare Tottenham e Bayern, mi sembra un po' più severo, ecco. Ma sì, in realtà questa è una statistica che si basa su risultati uguali, cioè su situazioni nelle quali la partita d'andata era finita o 0-1 come quella a San Siro, o la partita appunto della infatti tutte e due 0-1. Detto questo, la statistica arriva fino a un certo punto, nel senso che comunque stiamo parlando di partite giocate qualche giorno fa, ci sono segnali diversi, ad esempio ci sono segnali più confortanti per quanto riguarda il Milan, che dopo la partita col Tottenham comunque invece ha dato delle sensazioni certamente di crescita, o ad esempio il Bayern di Monaco, che invece dopo la partita con l'Inter ha infilato una serie di topiche bestiali. Quindi i numeri vanno letti per quello che ha detto il passato, le sensazioni che riguardano invece le squadre italiane, a parer mio anche la Roma, nel senso che la Roma era una squadra con un allenatore diverso, con una situazione ambientale diversa, sì. Cioè io credo che sia giusto fare dei confronti numerici e utilizzare questi parametri, ne metterei altri però, quelli ambientali, quelli che per fortuna fanno del calcio non una scienza esatta, altrimenti sapremmo già i risultati di stasera e allora di cosa parliamo, cioè, occupiamoci d'altro. La partita più aperta, stando a queste, ripeto, queste statistiche, stando ai bookmakers e a chi se ne è occupato prima, sulla base per l'appunto di dati numerici, Barcellona-Arsenal, in cui c'è grosso modo un 52% di probabilità per il Barcellona di passare il turno e un corrispondente 48% dell'Arsenal. Ora, fa abbastanza sensazione vista così, perché in fondo il Barcellona ha perso fuori a Londra, ma ha segnato il gol fuori casa, quindi la vittoria col minimo scarto, purché sia per 1-0, gli è sufficiente. Stiamo parlando del Barcellona mega galattico, stiamo parlando di tutte queste cose. Però è anche vero che stiamo parlando di una squadra che stasera gioca senza la coppia centrale Piqué-Pujol e gioca contro un attacco che anche fuori casa, quello dell'Arsenal, sa farsi valere. Io credo che in questo caso abbiano ragione i bookmakers, e sarei forse uno degli ultimi a stupirmi se poi stasera ci dovesse essere questa prima clamorosa sorpresa del Barcellona fuori. Ma guarda, che il Barcellona rischi qualcosa è evidente. L'Arsenal è una squadra che lo ha dimostrato poi anche in finale di Carling Cup, non ha ancora completato quel processo di maturità che a questo punto probabilmente però è una maturazione tardiva. Però ha molto talento, credo che Van Persie partirà dalla panchina. Diciamo che l'Arsenal non ha un attacco centrale così forte da mettere in ginocchio il Barcellona per le sue carenze al centro. Piqué Pujol, insomma, se non sono la miglior coppia centrale del mondo, comunque stanno nelle prime tre. La coppia che è formata da Vidal e Sergio Busquets è una coppia un po' raffazzonata, però è una coppia che ci può stare, e Guardiola si fida molto, infatti non farà giocare Milito difensore centrale, ma arretrerà Busquets perché ha Mascherano. Meno male. Devo dirti, Gigi, che osservando le panchine, cioè la panchina del Barcellona non è la panchina, chiaro, ci sono fuori due giocatori importanti, ma non è la panchina di una squadra che ti dà l'idea di poter stracciare tutti, perché non ci sono i giocatori straordinari ai quali Guardiola può rinunciare. Cioè, il Barcellona si caratterizza comunque per un gruppo forte, ma che è formato da 12-13 elementi, non di più. E quindi è chiaro che quando c'è una squalifica, c'è un infortunio, la squadra va in difficoltà. Ti aggiungo anche che le uniche volte, non sono state molte, nelle quali il Barcellona ha perso, sono state tutte partite nelle quali Charlie Pujol non c'era. E quindi, insomma, secondo me il livello di tensione deve essere alto. Detto questo, se il Barcellona gioca una partita alla sua velocità, di navigazione, l'Arsenal non ha la possibilità di tenere quei ritmi ed è destinato a perdere. Io faccio sempre il confronto con il tennis, perché stiamo parlando di due squadre che hanno un gioco molto simile. Cioè, se tu giochi sulla terra rossa contro Nadal e lui gioca al massimo, è molto probabile che vincerà lui, anche se tu hai caratteristiche simili, perché comunque lui è più forte. E il paragone, secondo me, rende, perché l'Arsenal è un piccolo Barcellona. Bisogna vedere se il Barcellona gioca da Nadal o da Barcellona. Nel caso in cui il Barcellona avesse qualche difficoltà, ecco che l'Arsenal è la squadra giusta per colpirla, proprio perché ha le stesse armi, anche se chiaramente di un calibro leggermente inferiore. No, ma questo è vero. Il Barcellona ha anche fatto ha vinto anche le ultime partite in campionato, ma insomma le vinte col minimo scarto, ha fatto un po' fatica. Non è brillante come nelle sue fasi migliori. Certamente no. Gli mancano quei due uomini. Può darsi che abbia riservato le sue cartucce migliori per stasera, ma certamente questa è una sfida affascinante. Tra l'altro è anche una sfida che, così come è molto leale sul campo, perché ci giocano giocatori di qualità, ma anche di grande eleganza, anche di insomma, oltre che talento, ci mettiamo tutto quello che vogliamo. Però è una sfida un po' avvelenata sul piano societario, invece, perché l'Arsenal ha il vizio non soltanto di andare a pescare non soltanto nella cantera, nella masia del Barcellona, i ragazzini appena svezzati, ce l'ha un po' in giro per l'Europa, ma ce l'ha in particolare nei confronti di Barcellona. Lo fece con Fabregas tanti anni fa, l'ha fatto anche di recente con degli altri gioiellini, e questo in ambito societario ha prodotto delle tensioni non da poco. Sì, questo è vero. Credo che il Barcellona sarà realmente felice quando riuscirà a riprendersi Fabregas, e l'Arsenal invece gode tantissimo nell'averglielo portato via e nell'averlo fatto diventare un grande giocatore. Tieni conto che Fabregas è uno dei pochissimi che c'era già nel 2006, quando Barcellona e Arsenal fecero la finale di Champions League a Parigi, per questo, per dire la caratura del personaggio. E comunque sono due squadre che si ispirano a una filosofia simile. Devo anche dirti che la penuria di talenti in Inghilterra quasi costringe l'Arsenal ad andare a cercare altrove, mentre invece, per fortuna degli spagnoli, la cantera o la masia producono sempre qualche cosa, e quindi è più facile che sia l'Arsenal a cercare di portare via qualcuno rispetto al Barcellona, che possa andare a pescare in Inghilterra. Diciamo che ci sta anche questo, insomma, fa parte tutto delle strategie. Credo che poi il controllo del territorio dovrebbe essere la prima cosa, però viviamo in un mondo talmente largo e aperto ormai, per cui troviamo che per la prima volta l'Athletic di Bilbao gioca senza giocatori baschi, e questo allora vuol dire che il mondo è davvero un po' più grande rispetto al nostro radar, e quindi i confini geografici poi possono anche saltare. Ottima riflessione. Comunque a Barcellona non ha mandato giù questo acquisto di Toral è un ragazzino di 16 anni, l'Arsenal l'ha fatto firmare giusto una settimana fa, loro puntavano molto su Toral e hanno rivisto un pochino il film di Fabregas, che ormai sembra un veterano, da tanti sono gli anni che gioca nell'Arsenal, ma in realtà ne ha 23 di anni, e quindi la trattativa, l'acquisto o lo scippo, come l'ha sempre chiamato a Barcellona, di allora insomma è già datato, ma si trattava per l'appunto di un ragazzino anche in quel caso. Primo intervallo, strade. Torniamo in compagnia di Fabio Tavelli. Stasera ritornano le coppe europee, quindi questo è l'argomento di punta, ma non sono pochi anche i temi che ricavati dalle rispettive giornate di campionato in Europa. Per esempio quello degli esoneri, perché non molto tempo fa avevamo fatto una statistica, insomma, avevamo fatto un check, no? Da cui risultava che il calcio italiano quest'anno era insolitamente paziente e gli esoneri più o meno incredibilmente si equivalevano tra Italia, Germania, Spagna, Inghilterra. Adesso mi sembra che li abbiamo staccati di nuovo. Guarda, Gigi, c'è stato un momento nel quale addirittura la morigeratezza dei presidenti italiani li portava a un gradino superiore rispetto a quelli inglesi e quelli spagnoli e quelli tedeschi. Ed effettivamente fino a novembre-dicembre la pazienza dei presidenti è stata sorprendente. E poi invece no, insomma, è venuto giù il mondo, nel senso che poi l'Italia è tornata ad avere questo triste primato degli esoneri, per cui adesso siamo a 11 e quindi siamo oltre la metà, quando nei maggiori campionati europei, ovviamente parliamo di Inghilterra, di Liga Spagnola, di Bundesliga, non si superano le 5 o al massimo le 6 o i 6 licenziamenti. Diciamo che sta tornando tutto alla normalità. A me, stando molte ore poi in onda col telegiornale e ricevendo anche molte segnalazioni anche di cose che poi non vanno in onda, fa molta specie il fatto che nel giro di una settimana ci siano stati allenatori che sono stati indicati come i sostituti di altri su un sacco di panchine, quindi quando è saltato Delio Rossi, quando è saltato Di Carlo, oppure le considerazioni fatte sulla panchina del Torino. Cioè ci sono 5-6 allenatori che stanno facendo come la pallina del flipper e si stanno posizionando come interesse in qualsiasi panchina che viene a liberarsi. Diciamo che questo dovrebbe durare ancora 2-3 settimane, diciamo un mese al massimo, e poi a 4-5 giornate dalla fine io mi auguro che i presidenti poi evitino di fare come fece Spinelli o anche Ghirardi quando cambiò l'allenatore a una giornata dalla fine. Certo, con un successo strepitoso, con un trionfo, sì. Da Cooper, mi ricordo. Senti, Daniele da Milano fa una bella osservazione, dice: ma secondo voi se Fabregas fosse rimasto a Barcellona con Xavi davanti sarebbe diventato il campione di oggi? Beh, forse no. Io credo invece di sì, ma in maniera molto molto semplice. Fabregas è veramente un grande giocatore, come un grande giocatore Xavi. È possibile che avrebbe costretto gli allenatori, poi sai, dipende anche molto dalle sensibilità degli allenatori, dipende molto a quale allenatore va in mano. Cioè Fabregas sarebbe andato in mano a Rijkaard prima che a Guardiola, nel senso che nel 2006 c'era Rijkaard ad allenare il Barcellona ed era un Barcellona che giocava con Eto'o, con Henrik Larsson, giocava con Deco e a centrocampo, pensate, aveva Ed Milson e Van Bommel con Thiago Motta in panchina. Cioè era una filosofia diversa. Ora, Xavi e Iniesta quella sera a Parigi erano tutti e due in panchina e Fabregas invece era in campo ed era in campo già da protagonista, quindi io ci andrei piano. Forse Xavi non avrebbe giocato e Fabregas avrebbe giocato, anche perché Xavi davvero... Fabregas è davvero maturato decisamente prima, ma non prima di Xavi, prima di quasi chiunque altro. È vero. Senti, Michele da Valenza domanda, dice: ma se il Napoli vendesse Hamsik a 25 milioni, potrebbe prendere Fabregas? La risposta è no, cioè dovrebbe mettercene molti altri, insomma Fabregas costa molto più. Raddoppiare, ecco. Diciamo raddoppiare. Sì. Dovrebbe mettercene parecchi altri, insomma, considerando che il Napoli dovrà ancora dare un certo numero di milioni di euro, anche se rateizzati, al Palermo per Cavani. Cioè, io credo che, insomma, francamente a questa domanda rispondo di no. Cioè, sì. Mi domando perché Fabregas debba andare al Napoli, con grande rispetto e con grande simpatia per, certo, per il Napoli. Ma era per accontentare una volta un ascoltatore. Ecco, certo. Sì, un altro carino, Dante da Busto, Arsizio, dice: scommetto un caffè buono che lei stasera vedrà Arsenal Barcellona e non Roma e non Shakhtar Roma. Beh, cioè, vale a 0,01. Sì, sono un po' più fortunato e riesco a vederle tutte e due, sì. ma non per diretta gol, ma proprio per lavoro. Certo. Dovendo o così, mi sembra chiaro, cioè la Roma merita tutta la simpatia, tutto l'in bocca al lupo, l'incoraggiamento, sì, e noi, certo, speriamo naturalmente che, certo, passi e glielo diamo prima e poi però guardiamo, certo, e poi però guardiamo Barcellona Arsenal a meno di ricetta medica ben precisa, insomma. Allora in questo caso, certo, è chiaro che il tifoso guarda la partita della squadra per la quale tifa, chi non è tifoso può scegliere, insomma. Ci mancherebbe altro. Fabio, visto che ci siamo e stiamo andando avanti piacevolmente, ho visto un sacco di papere di portieri in questo fine settimana. Sì, no, non è stata una buona settimana per i portieri, perché gli inglesi hanno cominciato tra sabato e domenica a infilarne qualcuna di comica, devo dire. Il portiere del Wigan sul tiro di David Silva, Howard nella partita tra Newcastle ed Everton, anche Van der Sar un po' goffo sul 3-0 del Liverpool, piccola segnalazione. Io credo che, insomma, forse per il momento è l'azione dell'anno quella di Suarez sulla fascia sinistra per il gol di Dirk Kuyt, con anche un piccolo e vago sospetto che io ho che quella palla potesse anche entrare senza il tocco di Dirk Kuyt. Cioè, sì. Quella palla mi sembrava ben indirizzata, se non proprio dentro nel palo interno. Ecco, tanto non lo sapremo mai. È vero, secondo me fosse stato un grande signore, l'accompagnava, tanto la palla era molto lenta, l'accompagnava verso il palo e poi avrebbe messo il piede di spigolo sul palo per correggere dentro nel caso non entrasse. Per fare un'altra sponda, sì, però questo sarebbe stato un ragionamento troppo raffinato, ma per chiunque, non solo per Certo. Però Suarez davvero ha fatto una cosa da Messi, una cosa mostruosa, alla velocità della luce. Ti dirò anche che in Italia poi anche Gomez non benissimo, questo mi porta a pensare che insomma il Milan deve approvare, oltre che è obbligato a farlo perché deve vincere, insomma, di cercare di tenere spesso la palla, magari anche alta, dalle parti di Gomez, che fa delle grandi parate ma le alterna delle topiche mostruose. Poi anche in Italia, però, perché sicurezza Edoardo ormai è... Edoardo è una garanzia. Edoardo non fa più parte, è una categoria. Sì. Però ho visto che anche Antonioli, insomma, sul gol dell'1-3 si è disimpegnato. Ma se parliamo di Milan, pure Buffon qualcosina di suo ci ha messo, no? Quindi... Ma anche il portiere alla partita della Fiorentina, adesso mi sfugge il nome del Catania, Andukar. Su un gol di Mutu. Vero, il gol d'apertura, tra l'altro. Sì, esatto. Senti, potremmo chiudere con evadendo una richiesta che è stata formulata ieri da un ascoltatore, che è quella di saperne di più su Villas Boas, e cioè sull'ex secondo di Mourinho che sta stritolando il campionato portoghese alla guida del Porto. Che ci racconti? Ci sono due cose curiose della vita di Villas Boas. Intanto il fatto di essere nato ricco gli ha dato la possibilità di abitare vicino a Bobby Robson quando Robson allenava il Barcellona, e quindi di diventare e di riuscire anche con la curiosità del ragazzino. Lui come Mourinho, con Mourinho ha molto in comune anche il fatto di non essere stato un giocatore di una certa caratura, ma è stato utilizzato. Intanto lì è davvero curioso perché si sono attaccati tutti e due a Robson, uno è diventato il suo traduttore e l'altro è diventato una sorta di piccolo osservatore, piccolo aiutante osservatore che andava a studiare gli avversari. Poi Mourinho, che può avere molti difetti ma è certamente una persona molto intelligente, ha capito che questo capisce molto il calcio e soprattutto studiava e dava delle indicazioni e delle dritte importanti sugli avversari, e l'ha spedito a studiare gli avversari. Non a caso Mourinho se l'è tenuto al Porto, l'ha portato al Chelsea e l'ha tenuto all'Inter, quindi è chiaro che uno così non lo molli. Adesso lui ha avuto prima a Coimbra la sua prima panchina di una squadra di club e è riuscito a non solo a salvarli ma a portarli anche in una posizione molto tranquilla, facendo ingolosire subito il Porto, e loro sono stati molto bravi a fargli un contratto fino al 2012 e poi anche a proporgli già un allungamento, perché mi risulta che molte squadre europee e anche qualcuna dalle nostre parti stia chiedendo informazioni già da un po' sulle sue metodologie. Detto questo, la seconda curiosità, al di là del fatto di abitare lo stesso palazzo di Robson a Barcellona, è il fatto che Villas Boas ha anche allenato una nazionale, che è la nazionale delle Isole Vergini, a 22 anni, e lui fu cacciato dopo un 9-0 preso da un'altra nazionale esotica, quella delle Bermudas. Quindi diciamo che il suo primo impatto come tecnico di una nazionale non è stato brillantissimo, però è anche vero che stava allenando un paese che non ha tradizione calcistica, buone tradizioni come un paradiso fiscale magari, ma meno dal punto di vista, però certo se ne prendi 9 da una squadra come le Bermudas forse vabbè, insomma, comunque i tuoi giocatori non erano granché, e comunque la sensazione che lui dà è di essere intanto essersi abbeverato alla fonte di Mourinho, sicuro, anche se lui non lo dice così. Le sue conferenze stampa, mi dicono amici che lavorano da quelle parti, rimangono molto molto interessanti. Io credo che lo vedremo prestissimo su un altro club, non mi stupirei già dall'anno prossimo di vederlo alla guida di una grande squadra, non che il Porto non lo sia, però penso che lui stesso abbia voglia di misurarsi con un palcoscenico diverso. È un allenatore molto giovane, è un allenatore molto molto interessante. Molto probabile che finisca così. Fabio, a domani a questo punto. Grazie, a domani Gigi, buongiorno a tutti. Grazie a te. Molti messaggi, per esempio Paola domanda, ma Garrone ha mandato via Pazzini perché a suo dire non voleva restare, ma Sanchez secondo voi non avrebbe voluto andarsene a sua volta, però Pozzo l'ha tenuto almeno fino a giugno. Sì sì, ma sono riflessioni che ci stanno. Anche Domenico da Napoli scrive, il Napoli è vero dovrà pagare Cavani, ma dovrà anche ricevere i soldi di Quagliarella. Sì, se ne parlava con Berinazzo la settimana scorsa, su questo diritto dovere di riscatto. Poi vediamo come andranno a finire, se tutti gli impegni che sono stati presi verranno onorati. Carino questo gol lampo, perché ci sono sempre queste suggestioni, che statistiche. A Narni, in una partita di eccellenza domenica scorsa, è stato segnato forse il gol più veloce della storia del calcio italiano, questo passato di 3 secondi e 9 decimi, cronometrati ovviamente, dal gol inaugurale, e cioè tocco a centrocampo dell'attaccante, in avanti ovviamente rispetto al compagno, che vede il portiere al limite dell'area, indovina un lungo lob alla Mascara, per capirci, o alla Quagliarella, e il tragitto del pallone più quel tocco di prima fa per l'appunto 3 secondi e 9 decimi. Intervallo per i mercati. La vigilia della Roma, ormai mancano, cosa sono, 6, 14, 34, sì, 6 ore circa alla partita, la vigilia della Roma, magari con due voci, cominciamo da quella di Montella. Ma io la partita dall'andata, secondo me, si è visto che lo Shakhtar ha giocatori di qualità e anche di corsa, però nel contempo ha dimostrato anche di essere una squadra battibile, perché nonostante la Roma non abbia espresso in quella partita il suo miglior potenziale, ha avuto tante occasioni da rete, quindi può fare ancora meglio. Quindi da questo punto di vista sono molto ottimista, anche perché vedo che la squadra sta crescendo. Naturalmente sarà una partita difficile perché è una squadra valida. Però ripeto, sono ottimista perché vedo la Roma in netta crescita, e probabilmente come valore assoluto del giocatore è anche superiore. Quindi noi ci giocheremo la partita come giusto che sia e come immaginata, insomma. Sulla panchina dello Shakhtar invece una vecchia lenza, no? come Lucescu, ex commissario tecnico tra l'altro della Romania negli anni 80, che eliminò l'Italia dall'Europeo. Da un campionato d'Europa, quello dell'84 che si giocò in Francia, e poi tutta una carriera anche con squadre di club italiane. Adesso allena da qualche tempo lo Shakhtar Donetsk, questa è la sua breve vigilia. Sarà una partita molto difficile, so benissimo che Roma viene qua per fare il colpo, di cercare di ottenere la qualificazione. Noi dobbiamo essere attenti e concentrati, giocando con tutto quello che noi sappiamo farlo. L'italiano non l'ha certamente dimenticato. Da Cesena, da Roma e da Bologna, i tre primi interventi di oggi. Da Cesena ha chiamato Piero, buongiorno. Buongiorno, dottor Garanzini. Innanzitutto un bacio a tutte le donne e un augurio a tutte le donne. Le volevo dire, Garanzini, che se i bookmaker fanno le previsioni come il Cesena, si qualifica la Roma tutte, perché all'inizio campionato, il primo allenatore ad essere esonerato in Serie A doveva essere Piccadenti del Cesena. Questo però fa parte di un progetto che poi con Igor, perché con il nostro presidente Cappedelli ha fatto un progetto, un percorso, e non lo molla, giustamente. O nel bene o è fallimentare, quel punto lì abbandoni, però fin quando c'è speranza, il progetto deve andare avanti. I bookmaker, dicevo, Cesena, dunque Ficcadenti, primo allenatore esonerato, retrocessione sabato, le ultime quotazioni, salvezza del Cesena 3,50, oggi la vedo 1,60. Poi il tema, sempre nel tema, le papere dei portieri, Antonioli ne fa uno all'anno, l'ha fatto domenica, ci è andata bene, quindi per quest'anno... Perché l'ha fatta in un momento in cui costava poco, insomma. No, ma i segnali per il Cesena sono incoraggianti, indubbiamente. Di statistiche, se vivessimo di bookmaker e statistiche, non, evidentemente sarebbe troppo facile il calcio, no? Perché vincerebbe sempre il più forte. Individuare il più forte o il favorito non è un'impresa impossibile, se si pensa soltanto alla carta, per l'appunto, e non al campo. E quindi è ovvio che vanno prese con beneficio l'inventario, però bisogna fare un giusto giusto mix, secondo me, tra le indicazioni che i bookmakers danno, le conseguenze che si possono trarre da statistiche approfondite che durano, cioè che arrivano dalle coppe di tanti e tanti anni, tipo che il Bayern, per esempio, ogni volta che ha vinto fuori casa poi si è sempre qualificato, anche lì, no? Che si gioca? Si gioca la quota normale, la quota più favorevole, la quota più tranquilla, e cioè che il Bayern si qualificherà, o si gioca che proprio perché non è mai accaduto e quindi ha una quota più favorevole si punta sull'Inter? Ma sono i giochi tipici della vigilia. Marco, Roma, buongiorno. Buongiorno, io volevo parlare, forse c'è un dato inesatto. Una volta l'Inter vinse contro il Bayern di Monaco, l'allenatore era Trapattoni, 2-0 a sì. Monaco. Poi ritornò qui e il Bayern di Monaco vinse 3-0. 3-1. E 3-1? Credo di sì. 3-0, comunque fu eliminato l'Inter poi. Io credo, forse 3-0, allora evidentemente, perché sennò sarebbe, non lo so, io la vidi pure quella partita, stiamo parlando di anni 80, fine anni 80, e stiamo parlando di un 7 dicembre. E quindi lo ricordo abbastanza bene, mi costò la prima alla Scala, che, a cui avrei tenuto leggermente di più. Ma cosa vorrebbe dire, Marco? No, volevo dire, no, volevo modificare il dato, perché il 10 aprile c'era solo una squadra che aveva vinto, aveva perso fuori casa, poi aveva recuperato, insomma. No, parliamo, quella era UEFA comunque, parliamo di, era UEFA, non era Coppa dei Campioni, Marco. Ok, comunque squadre importanti. Comunque. Sì, no, squadre grosse non c'è dubbio, però il dato che riferiva Tavelli era un dato che riguarda la Champions League. Da quando c'è la Champions League è così, soltanto l'Ajax è riuscita in quel tipo di impresa. E a maggior ragione, visto che risale 15 anni fa, insomma, è ora che tocchi a qualcun altro e magari toccherà a una o più di queste tre squadre italiane. Grazie, andiamo a Bologna da Roberto, buongiorno. Ah, buongiorno, volevo rilanciarmi un discorso prima che faceva con l'amico di Sky del Barcellona. Sì. Secondo me è un discorso più cabalistico, perché siccome siete tifosi ovviamente delle squadre spagnole, e quindi secondo me domani riparleremo tranquillamente con un Barcellona che ha fatto una grande partita e l'Arsenal, pur essendo una buona squadra, va fuori. Secondo me è più una questione cabalistica, ovviamente. Ma cosa vuol dire siete tifosi delle squadre spagnole, Roberto? No, siete sicuramente, se non tifosi, comunque posso dire, preferite le squadre spagnole che quelle italiane, perché, come posso dire, danno un maggior spettacolo al calcio. Quindi secondo me alla fine domani riparleremo sicuramente di un grande Barcellona e l'Arsenal andrà fuori come i pronostici lo dicono. Ma insomma, diciamo che torniamo alla carta. Sulla carta dovrebbe essere così, perché comunque la caratura di Barcellona si è vista anche nella partita di andata. Poi c'è stata una grande rimonta finale dell'Arsenal, ma insomma, se il Barcellona, anziché solo sull'1-0, fosse andato sul 2-0, era soltanto giusto per come si era messa la partita, per come era andata, per come l'hanno giocata gli uni e gli altri. Però poi ti ritrovi con un 2-1 da rimontare in casa contro una grande squadra come oggettivamente l'Arsenal è, e se non hai la coppia centrale difensiva, pur avendone reinventata una eccellente, perché Abidal è un difensore strepitoso e Sergi Busquets ha dimostrato già in qualche occasione di emergenza di saper fare come centrale difensivo, però altro è farlo magari contro una squadra di piccolo o medio calibro spagnolo e altro è farlo contro una squadra come l'Arsenal. Poi è vero che ci sono precedenti di coppe centrali, io ricordo la vigilia della finale di Atene, quando il Milan giocò la finale di Coppa Campioni con Palo del 94 contro il Barcellona di Romario e di grandi giocatori, Stoichkov e finché ce n'è, e il problema qual era? Era che non avendo la coppia centrale squalificata Baresi Costa Curta sembrava un ostacolo insuperabile, insomma, il Barcellona praticamente, non dico che non entrò in area, ma quasi, e ne prese 4, quindi poi anche delle coppie centrali difensive si può fare a meno in determinate circostanze. Diego da Brescia, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, innanzitutto complimenti per la trasmissione e per il suo modo impeccabile di condurla. Grazie. Io volevo parlare della mia Juventus. Da quando sono piccolo mi ha sempre detto che il modo peggiore per risolvere i problemi è quello di non affrontarli. La settimana scorsa, come tutti i giorni, ho sentito la sua trasmissione il nostro Marco Tardelli, che diceva per lui uno dei problemi grossi era quello che la Juve, quando è andata in Serie B, non aveva venduto i pezzi da 90. E adesso continuiamo a sperare in un progetto, ci parlano sempre di progetti, però questo progetto non si conosce bene. La mia domanda che le faccio è questa: ma secondo lei sul capo degli imputati chi ci dobbiamo mettere? Cioè, chi ha la maggior colpa adesso? L'allenatore, la società o i giocatori? Grazie per la risposta, Daniele, e buona giornata. Grazie, sarei contento di darle una risposta attendibile, ma non la so, credo che nessuno la sappia. Come si fa a dire se è più colpa dell'uno, dell'altro, degli altri ancora? È colpa di tutti, sicuro. La società ha sopravvalutato qualche giocatore e ha speso troppo per acquisti che non valevano la spesa, o perlomeno non valevano quella spesa. L'allenatore ha perso poco alla volta il controllo della situazione, ma non il controllo della situazione è sbagliato, insomma, ha perso carisma, ha perso qualcosa, insomma, per strada, non avendo nemmeno giocatori così adatti alle caratteristiche del suo gioco. Cioè, secondo me, quando si sceglie un allenatore come Del Neri, si sa che gli esterni sono fondamentali. Ora la Juventus ha comprato qualche esterno, però non tutti probabilmente delle caratteristiche che servivano a Del Neri. Poi lì diventa difficile dire Martinez chi l'ha voluto. L'ha voluto l'allenatore, l'ha voluto il direttore sportivo, l'ha voluto il direttore generale, l'ha voluto la società. Chi ha autorizzato una spesa di 12 milioni? Ma che come si fa a sapere queste cose? No, bisognerebbe. Forse non ne sanno nemmeno loro, perché poi sono operazioni che maturano progressivamente, e quindi credo sia un po' tanto difficile distribuire delle colpe. Allora, 3-1 per il Bayern a Milano, dopo il 2-0 dell'Inter all'andata a Monaco con un gol di Berti, forse il primo gol cost to cost che si ricordi, no, nella storia, perché era l'89 e quello di UEA venne molto dopo, e quindi così qualificato il Bayern, perché ha perso 2-0 in casa e poi ha vinto 3-1 fuori casa. Toccherebbe a due ascoltatori che rimandiamo subito dopo gli aggiornamenti dalle strade. Beh, l'8 marzo è una data oggettivamente impegnativa, io non ho voluto sapere, scoprire prima che cosa ha scovato per oggi Nicola Filippone. Sembra ieri. 8 marzo 1970, 23esima giornata di campionato. L'Inter di Heriberto Herrera conquista di misura un derby molto combattuto contro il Milan di Rocco. Il gol dell'1-0 finale lo segna a 10 minuti dal termine Mariolino Corso, che intercetta un retropassaggio avventato di Gino Maldera, superando con un tocco morbido il portiere rossonero Vecchi, entrato nella ripresa al posto dell'infortunato Cudicini. L'Inter, che non si aggiudicava un derby da 3 anni, scavalca così il Milan in classifica, guadagnando la terza posizione. Chiuderà il campionato al secondo posto, alle spalle del Cagliari, mentre la squadra rossonera si accontenterà della quarta posizione, in coabitazione con la Fiorentina. Molto bene, non avevo dubbi, ma insomma un piccolo patema prima di ascoltare un file ci può sempre essere. Nicola Filippone ha brillantemente bypassato i significati della data di oggi, ripeto, brillantemente e come ci si augurava. Lorenzo ha chiamato da Catania, buongiorno. Buongiorno. Ieri lei ha esultato per un intervento, anzi per un'intervista di Paolo Cannavaro dopo il pareggio deludente del Napoli col Brescia. Questo esultato è un po' forte, diciamo che ho apprezzato molto. Apprezzato molto, benissimo. Io sarei dello stesso parere, sono dello stesso parere, e mi sarei augurato che in epoche non sospette, quando il signor Moratti si lamentava che non vinceva perché c'era Moggi, l'evento subarava, eccetera, qualcuno dicesse a questo signore che non vinceva perché lui sbagliava, perché non capiva niente di calcio, e non perché Moggi barava. Ricordiamo che l'Inter, in un campionato in cui era già aveva vinto lo scudetto a luglio e agosto, raccolse ben 17 pareggi. Era colpa di Moggi? Non lo so, Lorenzo. Non è certamente colpa mia il suo intervento di oggi, questo lo dico a beneficio degli altri ascoltatori. È sempre difficile stabilire le colpe. Indubbiamente mi era appena compiaciuto per la mancata celebrazione dell'8 marzo, forse valeva la pena di invitare oggi solo ascoltatrici rigorosamente di appartenenza femminile. Rinaldo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno dottor Garanzini, buongiorno a tutti. Io volevo parlare della Sampdoria, che penso che si è messa abbastanza male. Sì. Diciamo, cioè siamo quasi in fondo alla classifica. Sì. E tutto sommato il fatto che il dottor Garrone abbia lasciato andare via Pazzini, penso che forse neanche lui crede tanto più ormai in questa squadra. Penso che ci sia rotto qualcosa, questo giocattolo che forse ci aveva fatto sperare, credere in qualcosa che invece non si è più realizzato. Tutto questo. Possiamo sentire, credo, una spiegazione che il presidente della Sampdoria ha dato ieri proprio sul caso Pazzini. La partenza di Pazzini, sia ben chiaro, non c'è nessuno, a meno che non sia un folle, io parlo dei miei colleghi, che tiene un giocatore che vuole andare via e ha fatto di tutto per andare via. È incomprensibile come i tifosi non capiscono che non si poteva più tenere, tanto che l'hanno applaudito quando è venuto a giocare in campo, mentre Cassano l'aveva fischiato. E questo era il presidente sampdoriano Garrone a proposito di Pazzini. Gianfranco ha chiamato da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Pur con tutti gli sforzi io non posso far parte dell'altra metà del cielo, sono un uomo. No, ma per me intendo, si può... Scherzavo, dico, volevo parlare degli arbitri. Sono, sì, secondo me, sotto gli occhi di tutti le evidenti e scarse prestazioni dei nostri arbitri recentemente. Adesso manca più di un mese al derby famoso Milan-Inter, che sarà indubbiamente una partita decisiva. Ma perché, visto che noi abbiamo mandato il nostro miglior arbitro ai mondiali e ha fatto quella figura che ha fatto, e arbitri come quelli che lei appunto ci suggeriva anche di leggere il libro di Michelotti, che io ho letto, gli arbitri di quel tempo, lo bello padre, lo bello figlio, anche se dal padre ci si poteva aspettare di tutto, per carità. Però oggi non abbiamo arbitri di quella levatura. Perché le due società non si mettono d'accordo, invitano un bel arbitro inglese? Perché? Permettendo organi federali consultati, per l'amor del cielo. Per Inter Milan, Gianfranco? Per Inter Milan, esatto. E magari l'arbitro inglese più quotato, Webb? Magari. Che è più scarso che è più scarso di almeno 10 arbitri italiani. Webb, si possono cercare arbitri di una certa, non scarsi da livello, livello europeo. Lei sta proponendo di cercare un arbitro straniero per arbitrare Inter Milan, a cui manca quasi un mese peraltro. Parte dal presupposto che gli arbitri italiani siano tra scarso e negato. Io non concordo con nessuno di questi presupposti, e le dico in particolare che l'arbitro inglese attualmente più quotato è Webb, che è quello che ha diretto la finale mondiale, e che proprio nella finale mondiale ha dato prova di essere scarso, ma veramente scarso, quale nessuno dei nostri arbitri appena da un certo livello in su si è mai dimostrato. Quindi insomma, direi proprio che è un'eventualità da rifuggire al massimo. Ci sono fior di arbitri italiani che, sbagliando magari, possono, cioè commettendo i loro bravi errori che fanno parte dell'essere arbitro, che possono dirigere tranquillamente Inter Milan. Se noi parliamo di, lei ha parlato di Robello e ha parlato di quegli anni, si ricordi che erano anni in cui non esistevano i filmati televisivi, cioè addirittura i primi tempi c'erano soltanto i cinegiornali, poi un po' alla volta si è arrivato alle immagini, e come cominciarono le immagini, cominciarono i guai anche per il Robello e per gli arbitri mitizzati di allora. Se gli arbitraggi di allora fossero vivisezionati dal numero terrificante di telecamere che c'è oggi, la valutazione su quei mostri sacri sarebbe profondamente diversa, mi creda. Roberto, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, senta, io volevo fare solo una domanda di questo genere. Io ho mio figlio che giocava nella Pro Sesto ai tempi che cinque anni fa, il torneo Gaetano Scirea, incontrò la squadra del Barcellona, dove c'era un ragazzo della cantera del Barcellona, un certo Azulin, che vinse proprio il miglior giocatore del Gaetano Scirea. Sappiamo che in quella in competizione poi chi ha vinto il trofeo del miglior giocatore, tipo Pirlo, così ha fatto tutti carriera. E ho riscontrato la traccia di questo giocatore, si chiama Azulin, del 91 del Barcellona. Ho provato a cercare in diversi siti e è sparito la circolazione. Volevo sapere se qualcuno di voi era in grado di rintracciarlo. Roberto, ci proviamo. Vediamo di mettere in piedi un veloce chi l'ha vista, adesso velocissimo in tempo per la puntata di oggi, non direi, perché siamo, anzi avremmo già dovuto chiudere, insomma ci proviamo prossimamente. Grazie anche a Filippo Aureggi in regia, a Franco Piantanida in redazione, buon pomeriggio.